Letture di Radio 24. Dopo la tragedia di Lampedusa, il comprensibile sentimento di pietà ha fatto mettere da parte per un momento, quasi per una sorta di pudore, l'attenzione che si dovrebbe sempre avere nel combattere la tratta di profughi e migranti. Ma affidarli ai mercanti di schiavi non è il modo migliore per aiutarli. Commenta Aldo Cazzullo nella sua rubrica sul Magazine 7. In una delle tante mail spedite dalle varie associazioni nei giorni della tragedia di Lampedusa è scritto: che cosa possiamo dire ai migranti che partono verso le nostre coste mettendo a repentaglio la loro vita? Niente, niente possiamo dire. E invece no, possiamo e dobbiamo dire ai migranti: non venite, non così. So bene che c'è differenza tra i clandestini, che possono essere respinti, e i profughi di guerra, i perseguitati politici, coloro che hanno diritto di asilo, che vanno accolti. Ma non è così che si soccorrono. Non è affidandoli a criminali come gli scafisti, i moderni mercanti di schiavi. Non è mettendo uomini, donne e bambini in balia del caso e di turpi monatti che li spingono in mare a colpi di frusta. L'assistenza ai profughi si organizza in altro modo, con i campi dell'ONU, le missioni di pace, se necessario ponti navali o aerei. C'è un'emergenza umanitaria in Siria. Muoviamoci. Abbiamo dei doveri storici nei confronti dell'Eritrea e della Somalia. Affrontiamoli. Sono convinto che una tassa destinata interamente ad assistere i profughi, anziché al vitalizio dei politici, gli italiani la pagherebbero volentieri. Ma il traffico di carne umana attraverso il canale di Sicilia va assolutamente fermato. Fa bene il Papa a ricordarci che viviamo in una condizione privilegiata e dobbiamo fare di più per l'altra sponda del Mediterraneo, per il sud del mondo. Però quel che accade sulle spiagge libiche e a Lampedusa offende la dignità dei migranti e non aiuta di sicuro la crescita civile del nostro paese. L'afflusso di disperati disposti a tutto è una goccia nel mare della povertà africana, ma è combustibile prezioso per il lavoro nero, l'economia illegale e criminale, le mafie che controllano vasti territori della penisola e non soltanto al sud. Chiamiamo in causa l'Europa, lavoriamo per integrare chi è già arrivato, continuiamo a soccorrere chi naufraga, ma fermiamo la rotta di Lampedusa. E quello che avete ascoltato era un estratto dall'articolo di Aldo Cazzullo «Chiudiamo la rotta di Lampedusa», dal Magazine 7 dell'11 ottobre. Letture di Radio 24. Per evitare legami amorosi precoci, in Cina è stato emanato un decreto che definisce la distanza minima tra ragazzi e ragazze delle scuole superiori. Mezzo metro di separazione. È la regola introdotta da scuole medie e licei cinesi per proteggere gli adolescenti dalle travolgenti cotte del tempo delle mele. Il decreto emanato dalle autorità scolastiche obbliga ragazzi e ragazze a restare a una distanza di almeno mezzo metro durante tutta la giornata scolastica. All'intervallo ragazzi e ragazze non potranno passeggiare insieme, ma solo divisi per gruppi dello stesso sesso, mentre il sesso opposto, per l'appunto, dovrà mantenersi a distanza. Sembra che tutto a un tratto tanto i genitori che le istituzioni abbiano cominciato a preoccuparsi dell'amore fra ragazzini. E come sempre, se c'è un fenomeno sociale, ci sono anche i due caratteri utilizzati per definirlo, ovvero, nel nostro caso, Cao Lian, cioè legami amorosi precoci. I genitori temono che queste tenerezze fra ragazzini non siano formative, ma possano avere effetti deleteri sullo studio, distraendo le giovani menti proprio quando queste sono a scuola e per lo più hanno accolto in modo molto positivo la drastica misura. Prevedibilmente, non appena le misure anti-innamoramento giovanile sono state messe sul web, ne sono diventate lo zimbello, con moltissimi utenti in preda alle matte risate o intenti a lanciare strali contro l'atteggiamento bigotto delle autorità scolastiche delle due città meridionali. Quello che è più inusuale, però, è che perfino un quotidiano fra i più ufficiali, il Quotidiano dei Giovani, abbia deciso di attaccare la decisione chiamandola in un articolo assurda, ridicola e illegale. E precisando che per quanto i flirt fra adolescenti siano da scoraggiare, è normale che avvengano e non è consigliabile utilizzare misure estreme e oppressive per evitarli. Non è la prima volta che l'amministrazione degli istituti educativi cinesi cerca di limitare gli affetti fra studenti. Baciarsi in teoria è proibito anche nei campus universitari. Ci sono perfino le tristi figure di quelli proposti alla sorveglianza affinché ciò non accada. Nemmeno la sera lungo i viali alberati dei parchi universitari. E c'è chi finisce con ammonimenti anche severi per aver usato una coccola. Per le ragazze che restano incinte, però, l'espulsione dall'università è ancora pratica frequente, per quanto nessuna punizione sia prevista per il ragazzo. Immaginiamo però l'atmosfera ancor più bizzarra che deve esserci in classe, tenendo conto che dal 2002 il Ministero dell'Educazione ha voluto che le scuole medie e i licei cinesi introducessero l'educazione sessuale nel curriculum, decidendo che malgrado timori e imbarazzi, affrontare il tema a scuola con un insegnante preparato era la cosa migliore da fare, per evitare gravidanze indesiderate e spiegare i fatti della vita ai ragazzini, a patto però che si tengano a mezzo metro di distanza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ilaria Maria Sala, Mezzo metro, la distanza anti-flirt in Cina, dalla Stampa dell'8 ottobre. Si dice che il reddito medio delle famiglie sia tornato ai livelli di 27 anni fa. In realtà, commenta l'economista Enrico Gotti Tedeschi in un articolo pubblicato sull'ultimo numero della rivista Formiche, in questi anni il reddito è aumentato, ma la crescita dei consumi ha di fatto sostituito una crescita equilibrata delle famiglie. Perdere di vista il ruolo economico della famiglia significa però svantaggiare l'intera società, convertita ormai in un sistema senza ideali e senza progetti. Senza aumento delle nascite, il PIL nel mondo cresce solo se si fanno crescere i consumi individuali. Per creare una cultura di consumismo, si devono installare nella cervice umana concetti di soddisfazione materialistica, al posto di quelli di soddisfazione intellettuale e spirituale. In pratica, per sentirsi soddisfatti materialmente, ci si deve sentire animali intelligenti. Se ciò non fosse, non ci si contenterebbe dei beni materiali, in senso lato. Ma la crescita consumistica, quale compensazione di crescita zero della popolazione, non crescendo realmente e in modo sostenibile il PIL, pretende potere di acquisto in crescita. Se quello reale non c'è, si comincia a mangiar risparmio per arrivare progressivamente alla magia dell'indebitamento progressivo. In un sistema poi di welfare maturo, la non crescita reale del PIL produce la crescita reale dei costi fissi, sanità, pensioni, eccetera, che viene coperta da sempre maggiori imposte, che riducono il potere di acquisto e gli investimenti. Per sostenere detto potere di acquisto necessario ai consumi, si delocalizzano le produzioni in paesi a basso costo, ma questo, senza strategie alternative, crea vulnerabilità di produzione e occupazione. In pratica, crea la situazione cui siamo arrivati. Ma di ciò non possiamo parlare in vera libertà perché il problema, quando dalla diagnosi si passa alla prognosi, viene allora ricondotto a essere un tema morale. E la morale come orientamento di discussione scientifico è rifiutata. I figli non si possono più fare. La famiglia? Cos'è? In Lumen Fidei, Papa Francesco spiega che l'uomo ha bisogno di verità di riferimento per dar senso alla vita, alle azioni e valorizzare la società, la famiglia. Gli equilibri socio-economici dipendono da questi valori attuati. Qualche mese fa si lesse sui giornali che il reddito delle famiglie italiane era tornato indietro di 27 anni. No, in realtà era cresciuto illusoriamente in 27 anni, sostituendo la crescita consumistica a una crescita equilibrata della popolazione, nell'illusione folle che non facendo figli si sarebbe diventati più ricchi. Ma la natura ha dimostrato il contrario, o persino peggio. Senza fare figli non si può neppure più mantenere i vecchi, quelli che hanno decretato la bontà del maltusianesimo. Mancando idee in un tempo di emergenza culturale, idee false appaiono vere. Si deve essere ricchi per far famiglia e figli? O si diventa ricchi facendo famiglia e figli? Oggi ci si lamenta che una coppia a parità di status professionale, età, eccetera, guadagni mediamente meno del solo capofamiglia 30 anni fa. Ciò perché in 30 anni, per sostenere i costi fissi del welfare, non più assorbibili dalla crescita reale dell'economia, si sono dovute far crescere le imposte sul PIL del 100%, che sono cioè raddoppiate e conseguentemente ridotto il potere d'acquisto. Boicottando conseguentemente la famiglia, si è concorso a svantaggiare l'intera società, che si è convertita in un sistema senza fini, senza identità, dove gli individui realizzano le proprie aspirazioni e vocazioni naturali in modo quasi selvaggio, deresponsabilizzato, spesso inconsapevole, senza ideali e aspirazioni di progetti di formare famiglie, fare ed educare i figli. Così si sta perdendo, o si è già perso, anche il valore economico della famiglia. Famiglia che di fatto prende in outsourcing dallo Stato formazione e sussidi ai giovani, e cura anziani e malati, svolge un triplice ruolo socio-economico, quello di investitore in capitale umano, quello di ridistributore di reddito al suo interno, secondo i veri bisogni, quello di risparmiatore a vantaggio della società. Detta famiglia andrebbe quotata in borsa, tanto produce valore economico. Invece di sentire proposte a sostegno della famiglia, se ne sentono invece a favore della decrescita, centrata sul congelamento delle nascite e mortificazione della famiglia stessa. Anche Caino era per la decrescita della popolazione, per ragioni di gelosia, ma aveva anche lui inventato la scusa ecologico-animalista. Uccise Abele perché costui sacrificava troppi agnelli al Signore, producendo inquinamento atmosferico. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Gotti Tedeschi, Come cresce una società, dal numero di ottobre della rivista Formiche.